L'inno della parola di Dio. Dio confida completamente nell'uomo. Dall'inizio fino ad ora, solo l'uomo può parlare con Dio. Solo l'uomo può parlare con Dio tra tutti gli esseri viventi. Hai il linguaggio, i pensieri e il libero arbitrio. L'uomo ha tutto ciò che serve per sentire Dio parlare e capire e che possa camminare con lui. Sin da quando aspetta che l'uomo doni il cuore, gli doni il cuore per tutto il tempo, per prepararlo e purificarlo.